tornando in diretta dopo il GR di Radio Popolare alle 7:45 minuti, portiamo un po' di altri suoni, sonorità che trovano nel martedì imprevedibile un suo imprevedibile suono. Ci affacciamo a quel mondo post acid jazz che in maniera, sì, anche questa imprevedibile, ha avuto intersezione musicale tra ambient, trip hop, elettronica, acustico e allo stesso tempo di narrazione legata all'improvvisazione. È una label strana già dal nome, la Pork Recordings, una label che mi ha incuriosito da subito con questa denominazione e anche con un gruppo, i Fila Brasilia, che spesso porto per le caratteristiche che ho elencato in precedenza. Quando ho visto i primi vinili o CD di questa formazione immaginavo riferimenti chiari al Brasile. No, Fila Brasilia è un nome totalmente a sé, è una denominazione che ha adottato questo duo della Pork Recordings. Tra l'altro uno dei due è fondatore della label che ho appena descritto, che prevede allo stesso modo, come tanti altri gruppi, un approfondimento musicale che riprende elettronica ed acustica in maniera progressiva, di gusto particolare e di struttura, che arriva a metà anni 90 e assieme ad altri gruppi come The Eight of Abrams o gli stessi Baby Mammoth, questo cucciolo di mammoth che adesso avremo in piccola playlist per presentare questa formazione, dove alcuni componenti stessi portati dai Fila Brasilia, dove musicisti che sanno con gusto mettere assieme tutte le caratteristiche che ho appena elencato, hanno dato per la label Pork, ma non solo, poi hanno trovato pubblicazione anche in un'altra label europea di cui parleremo. Iniziamo con la musica intanto, con questo aspetto ambient e soul dal disco che vi sto presentando, 7 Up, è il loro terzo lavoro, un lavoro questo che è stato meno riconosciuto per quanto riguarda la diffusione, ma che secondo me ha caratteristiche che rappresenta pieno Baby Mammoth. A tra poco, buon ascolto. prospettiva d'estate, non manca nel gusto e fuori nomi il duo Mark Blindeson and Andrew Burdell, questi specialisti nell'aspetto più profondo dei beat e nelle atmosfere ambient, con qualcosa che porta eleganza nei confini dell'acid jazz e nella scrittura contemporanea. Tutto ciò con la benedizione e la collaborazione di Steve Cobby, che ho citato con i Fila Brasilia. Precedenza dal disco 7 Up, un disco che è poco conosciuto per Baby Mammoth, sempre per un pubblico attento. Abbiamo ascoltato un live Pink Elephant da Baby Mammoth a questo elefante rosa. È in effetti una visione, un aspetto anche di atmosfera emotiva particolare. In questo disco, che è stato invece il primo ad arrivare in maniera importante in Italia, Another Day at the Orpheus, la radice, se vogliamo, di queste sonorità, sempre per Pork Recording, The Frankfurt Hive, stiamo ascoltando dal disco di Baby Mammoth, che ha avuto una possibilità all'interno della acid jazz di farci ascoltare queste note, diciamo forbite, ma allo stesso tempo di un grande gusto. We'll be right back. collaborazioni con altre label, come vi presenterò a breve, con la Echo Chamber, una label austriaca dal quale negli anni 2000 fanno uscire Octomak, sempre Baby Mammoth, da questo soffuso ambiente allo stesso tempo con capacità ritmiche che si fanno notare nell'uso tra la parte acustica ed elettronica per una colonna sonora. Questi brani tra l'altro sono colonna sonora di stagione, almeno per le micro sensazioni da me sentite, ecco, non so se poi a voi danno lo stesso effetto, però per un viaggio in estate le sonorità di Baby Mammoth danno un aspetto visivo oltre che musicale. Questi altri suoni, questo è l'ultimo brano di questa piccolissima playlist di presentazione per la formazione Baby Mammoth, nel cambiamento per la Echo Chambers, dal quale stiamo ascoltando un brano tratto dal disco Octomak. Beh, il cambiamento in questo caso, la prova è con un'elettronica più presente, anche con l'aspetto ritmico del drum and bass, del broken beat. Del resto la label come la Klein o anche come la famosa, più famosa G-Stone, ha una presenza di ritmi dub più forti, più consistenti, ecco, senza nulla togliere chiaramente alla scrittura musicale acustica. Questo è l'ultimo brano in un breve percorso di altri suoni dedicato a Baby Mammoth. Beh, io vi lascio in compagnia di queste note e tra pochissimo iniziamo il Move to Groove dell'imprevedibile martedì 23 luglio 2024, penultima puntata di stagione. Già con noi presente Pietro Rossi, aspettiamo la palla 2 quest'oggi di Paolo Onofri e inizieremo un percorso anche letterario col capolavoro Padri e figli di Turgenev, quindi avremo modo di conoscere diversi aspetti e non solo cestistici, come capita all'interno della rubrica del martedì. A tra poco. Peace.